thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. There must have been her a nice price. She's putting on her stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a pill out the watchword. Just l'apertura della trasmissione di oggi è dedicata a Franca Rame, che proprio oggi è morta. Un ricordo affettuoso per una compagna e una femminista che nel 1973 venne addirittura rapita per le sue idee da esponenti dell'estrema destra, fu stuprata, e, cosa che poi a distanza di tempo ricordò in un lavoro che si intitolava proprio Lo stupro, e noi la ricorderemo sempre con affetto. Ciao a tutte. Oggi, invece della parentesi di Elisabetta, vi sorbetterete la trasmissione di Elisabetta, perché le compagne sono tutte sotto interrogazioni, sotto esame, sotto tesi, e quindi oggi ci sono io. La prima notizia con cui vorrei aprire la trasmissione è la ratifica della Convenzione di Istanbul, che è stata approvata dalla Camera all'unanimità, e 545 voti su 545, e che passerà al Senato per l'approvazione. Allora, che cos'è la Convenzione di Istanbul? È una convenzione che intende contrastare ogni forma di violenza sulle donne. Allora, andiamo a vedere un attimo. Prima di tutto, l'Italia è la quinta nazione che ratifica questa convenzione, e le altre sono state Montenegro, Albania, Turchia e Portogallo. E perché la convenzione venga poi applicata, dovrà essere sottoscritta da almeno 10 stati, di cui almeno 8 del Consiglio d'Europa. Allora, andiamo a vedere cosa dice questa convenzione. Prima di tutto è formata da 81 articoli e nella premessa viene sottolineato che, questo è il testo, il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne. E poi dice: la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione. Poi, sempre nella premessa, viene detto che la natura della violenza contro le donne è strutturale in quanto basata sul genere, e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini. Allora, questo è il testo. Dopodiché la convenzione si propone degli obiettivi, no? Tra gli altri c'è quello, diciamo, la sostanza in effetti è quella di predisporre un quadro globale di politiche, di misure, di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, e di promuovere la cooperazione internazionale, di sostenere e assistere organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente. E con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende identificare una violazione dei diritti umani e una forte discriminazione contro le donne. Per esempio, questo è un passaggio che tutti hanno ritenuto estremamente importante, quella che la violenza nei confronti delle donne viene equiparata alla violazione dei diritti umani e a una forma di discriminazione. E poi dice che comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata. Allora, prima di tutto, queste sono, diciamo, le dichiarazioni fondanti della convenzione, e chiaramente noi come commento possiamo farne immediatamente uno, e cioè che è chiaro che se una oppressione o una situazione di questo tipo viene riconosciuta, viene nominata, comunque una cosa importante. È una cosa importante che venga tirata fuori dal silenzio, tirata fuori dall'omertà, resa pubblica, e quindi da questo punto di vista nulla è da eccepire su una posizione di questo tipo. Però allo stesso tempo ci vengono in mente tutte le infinite prese di posizione che sono state fatte non in quest'ambito, ma che sono sempre tutte dello stesso tipo. Non lo so, sui diritti umani, sul razzismo, sulla tutela ambientale, sulle emissioni di CO2, tutti gli infiniti congressi, convegni, convenzioni nazionali, internazionali, sovranazionali che sono state fatte. Sono tutte belle parole, sono tutte dichiarazioni condivisibilissime, però che si dimenticano soprattutto una cosa: prima, che sono dichiarazioni di principio che poi non hanno nessun seguito, ma perché questo seguito in effetti non possono averlo. Cioè, come si può pensare di prendere delle misure adeguate nei confronti della violenza contro le donne quando questa violenza è sì strutturale, come dice la convenzione, no? Prima abbiamo letto che la convenzione riconosce la natura strutturale della violenza contro le donne in quanto basata sul genere, ma la violenza contro le donne non è strutturale perché è basata sul genere, è strutturale perché appartiene a questo sistema organizzativo socio-economico. Infatti noi come coordinamento abbiamo fatto già diverso tempo fa un lungo percorso di analisi della violenza sulle donne, cioè anzi noi l'abbiamo chiamata giustamente violenza maschile sulle donne, perché la violenza, la configurazione della violenza è dovuta allo stato patriarcale, al sistema patriarcale, e quindi è una configurazione maschile di violenza. Allora noi abbiamo fatto riunioni tra di noi, discussioni, abbiamo fatto assemblee pubbliche allargate e abbiamo fatto 2 anni fa ancora un opuscolo che era proprio contro la violenza maschile sulle donne. Nelle ultime pagine avevamo sintetizzato che cosa significava per noi combattere la violenza sulle donne. È uno dei due, diciamo, i punti ci sono e c'erano, se avete per caso letto l'opuscolo, se ce l'avete avuto sotto mano. Due sono gli elementi fondanti che riteniamo appunto importantissimi, ma che non vengono di solito presi in considerazione. E uno sono i meccanismi che in questa società incentivano e aumentano la possibilità di violenza, nel senso che la violenza sulle donne è sì frutto della società patriarcale, ma la società patriarcale è mica qualcosa di disgiunto da questa società, è assolutamente e completamente legata alla configurazione capitalista in questo momento. Di conseguenza è impossibile parlare di violenza patriarcale, di configurazione patriarcale, senza pensare alla società in cui siamo calate, no? Per cui la società neoliberista è improntata sulla gerarchia, sulla subordinazione, sulla mercificazione di tutti i rapporti, e quindi è un impianto strutturalmente impostato su oppresso, sul dualismo oppresso-oppressore. È impossibile pensare di venire fuori da questo, dalla violenza maschile, senza intaccare e prendere di petto questo tipo di impostazione sociale. to mow them down. Yes, I love a fireman. You know the fireman, he had to retire. Yes, he tried to rest, but I'm the best, 'cause I'm hotter than Chicago fire. Yes, I love my way to hell. I love the devil and I love him well. Oh, she never saw. They call me Flaming Mamie, 'cause I'm the hottest gal in town. And when it comes to loving, I'm a human oven, and I know how to mow 'em down. Un altro punto importante da analizzare della Convenzione è quello che riguarda le misure da adottare. No, dice: i paesi che sottoscrivono la Convenzione adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza sia nella vita pubblica che privata, e condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottando misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, inserendo in Costituzione e negli altri ordinamenti il principio della parità tra i sessi, garantendo l'effettiva applicazione del principio, prevedendo sanzioni, abrogando leggi e pratiche che discriminano le donne. Gli stati firmatari inoltre si impegnano a varare misure legislative destinate a prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Un obbligo che ovviamente riguarda anche le stesse amministrazioni statali. Allora, quando parliamo di misure da adottare, la prima cosa che noi compagne ci chiediamo è: dobbiamo avere paura? Perché? Perché tutte le volte che sono successe violenze particolari, a cominciare da il 2007, quando c'è stata la grande manifestazione per l'uccisione di Reggiani, che cosa è successo? Che sono state la violenza sulle donne è stata usata sempre in funzione dello sdoganamento di politiche securitarie e fortemente repressive. Allora, quando lo Stato decide che deve adottare misure legislative di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare i diritti delle donne e deve prevedere sanzioni eccetera eccetera, allora ci sono due percorsi che lo Stato sicuramente adotterà. Allora, da una parte le misure legislative atte a promuovere il diritto eccetera eccetera sdoganeranno tutta una serie di finanziamenti di associazioni che vivranno di se stesse e che saranno l'alibi per questo tipo di sistema per dire: io faccio delle cose contro la violenza sulle donne. Oltre al fatto che cioè la maggior parte, usiamo il termine maggior parte, di queste associazioni promuovono un atteggiamento vittimizzante per le donne, infantilizzante, le infantilizzano e le vittimizzano, perché solo se una donna è disposta a delegare e a darsi a una struttura pubblica, poi può avere una qualche chance di ottenere una qualche attenzione e un qualche riconoscimento della violenza subita. Life I've always wanted, I guess I've never had. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid, I can tell, to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. I'll revel in their attention and mountains, oh mountains, oh thanks. E infatti la violenza sulle donne viene strumentalizzata tantissimo e per due, cioè in due modi, il sistema ha due percorsi: da una parte attraverso appunto le associazioni, l'attenzione a parole a questo tema eccetera, fa vedere che è un tipo di sistema, di stato, di organizzazione sociale attenta e quindi che vuole porre un freno, che vuole trovare una soluzione. Dall'altra usa quello che succede appunto per incentivare le politiche securitarie. Quando è stata nominata la presidente della Camera Laura Boldrini, una donna, e quando è stata nominata ministra Cécile Kyenge, perdonate la pronuncia, la prima cosa che hanno fatto l'una e l'altra è stata di dire che si sarebbero spese per combattere la violenza sulle donne e comunque contro la violenza contro le diversità, in particolare la ministra nera contro le discriminazioni e compagnia bella. Però che cosa è successo? Che una delle prime cose che la ministra Boldrini ha fatto appena ha ricevuto delle minacce o via web, ha posto il problema se era il caso di censurare o no la rete. E perché? Perché i percorsi sono di questo tipo: noi non siamo qualcosa, cioè la violenza sulle donne non è qualcosa di diverso, non viene usata in maniera diversa da come vengono usate tutti gli altri ambiti in questo tipo di struttura socio-economica. Mi viene in mente un'affermazione che ha fatto una femminista francese, Colette Guillaumin, che è una femminista materialista che si è occupata moltissimo degli intrecci di razza, genere e classe. E lei, parlando in questo caso del razzismo, diceva che la nostra società in effetti è caratterizzata da un antirazzismo razzista. E io, parafrasando questa frase, infatti direi che questa società è caratterizzata da un antisessismo sessista. Ricordiamoci sempre che le ministre e la presidente della Camera hanno poi auspicato questa famosa task force contro la violenza sulle donne. Che cosa significherà mai questa una task force contro la violenza sulle donne? Maggiore controllo del territorio? Maggiori telecamere? I braccialetti o le cavigliere con elettronici in modo da essere rintracciate sempre dovunque? Che cosa significherà la telecamera in cucina? Perché noi sappiamo che la maggioranza la stragrande maggioranza delle violenze avviene in ambiente domestico. Che cosa significherà un collegamento diretto tra la cucina e la questura? Thank you. continuiamo comunque con la Convenzione di Istanbul. Dice che le nazioni che sottoscrivono il trattato si impegnano inoltre a promuovere e attuare politiche efficaci volte a favorire la parità fra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne. Va inoltre sostenuto a tutti i livelli il lavoro delle ONG e delle donne e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne, favorendo un'efficace cooperazione con queste organizzazioni. La Convenzione prevede che gli Stati firmatari istituiscano uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e a contrastare ogni forma di violenza. Importante anche lo sforzo da compiere per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. Un obiettivo da raggiungere coinvolgendo sia il settore pubblico che privato, i media e le scuole. Allora, noi sappiamo che proprio perché l'oppressione di genere è strutturale e la società patriarcale, la società capitalista la società capitalista, la configurazione in questo momento della società patriarcale, l'oppressione di genere è appunto strutturale, e sappiamo anche che la cultura, la morale, il costume, le tradizioni, i pregiudizi sono risultato, usiamo un termine senza genere, sono risultato della configurazione socio-economica e non viceversa. Cioè, è impossibile pensare a un cambio culturale senza cambiare il modello economico. Tant'è vero questo che noi adesso da insomma diverso tempo assistiamo a dei cambiamenti sostanziali nel modello socio-economico, perché il sistema ha adottato in pieno l'ideologia neoliberista, perché il neoliberismo è un'ideologia a tutto campo, attraversa tutti gli ambiti della nostra vita, si infila dappertutto, è metabolismo sociale. Allora, se il neoliberismo è la nuova configurazione socio-economica che il sistema ha scelto, la cultura, i pregiudizi, le tradizioni, i rapporti tra gli individui sono il frutto di questa configurazione. Non è che un'affermazione di ideologica, un'affermazione di principio, un'affermazione così buttata lì. No, è verificata. Nel senso, dal momento che il nuovo modello è stato applicato per la prima volta nel mondo del lavoro, cioè è stato il processo di cambiamento si è innescato nel mondo del lavoro, no? Cioè con la precarizzazione, la gerarchizzazione, la nuova configurazione dei rapporti tra lavoratore, lavoratrice e azienda, per cui dal lavoratore si pretende una dedizione assoluta tutto il tempo della vita, la famosa femminilizzazione del mondo del lavoro, con la concorrenza spietata fra i lavoratori, cioè un lavoratore messo uno contro l'altro, la carriera prima di tutto, l'individualismo esasperato. Questi valori che sono stati impostati nel mondo del lavoro perché è stato cambiato il modello socio-economico, hanno dilagato a macchia d'olio nel resto della società e non poteva essere altrimenti, per cui i rapporti interpersonali si sono uniformati a questo e le persone man mano hanno imparato a rivalersi sul quello che viene considerato più debole, il locale, il lavoratore locale sull'immigrato, il cittadino che si ritiene normale contro quello senza casa, senza tetto. E perché questo non nel rapporto fra i maschi e le femmine? Perché il rapporto fra i maschi e le femmine dovrebbe essere qualcosa che non risponde a questo nuovo meccanismo impostato? Secondo argomento della prima parte della trasmissione, che è sempre legato quindi all'oppressione di genere, alla violenza sulle donne, e cioè un articolo che è uscito su Repubblica, un'inchiesta, e che condensa un po' il dibattito degli ultimi tempi sulla 194. Dice la 194: così sta morendo una legge, in Italia torna l'aborto clandestino. Oltre l'80% dei ginecologi è obiettore di coscienza e le donne respinte dalle istituzioni tornano al segreto. 20.000 le interruzioni di gravidanze illegali calcolate dal Ministero della Sanità, ma secondo alcune stime sono almeno il doppio. Allora, Repubblica fa un'inchiesta in cui poi tira fuori delle cifre che magari poi ci leggeremo, ed è un'indagine a tutto campo. Diciamo che il dibattito corrente che attraversa un po' la diciamo il comune sentire è quello che la 194 si deve difendere. Fermo restando che la 194 è stata utilissima, è utilissima, però bisogna anche che e quindi nessuno sputa su un diritto, nessuna sputa su un diritto acquisito. Però prima di tutto dovremmo chiederci che cos'è la 194 e perché è venuta fuori la 194. Allora, la 194 è una legge che è stata data dal sistema in un contesto particolare in cui le donne avevano acquistato autonomia, autodeterminazione e avevano deciso che gli aborti se li facevano da sole e che non avevano bisogno di nessuno. Chiaramente la prima cosa che fa il sistema in queste occasioni cerca di recuperare il dissenso e ha fatto la 194, che non è che l'ha fatta perché il sistema era buono, perché è maturato, perché ha deciso, perché ha pensato, perché il progresso, no, niente di tutto questo, perché se noi non ragioniamo in altri termini poi pensiamo che queste cose siano frutto di un progresso e non delle lotte, tant'è vero che come sono state date possono essere anche tolte, quindi il progresso e la presa di coscienza non c'entra niente, c'entra soltanto che noi quella volta come femministe, come donne, eravamo riuscite a spostare di un millimetro i rapporti di forza. E quindi la 194 è stato un mezzo per, da una parte, dare una risposta a quello che era a quella che era una forte presa di posizione, presa di coscienza. Dall'altra, la 194 è riuscita a riprendere le donne e a riportarle nell'alveo istituzionale, perché la 194 non ha mai depenalizzato l'aborto. L'aborto è ancora penale. Se l'aborto non è fatto nel percorso, secondo il percorso che la 194 prevede, non solo è fuori legge, ma è punibile penalmente. Le donne sono punibili penalmente, sono in libertà, noi siamo in libertà vigilata. Una delle prime cose che noi dovremmo non chiedere e neanche pretendere, ma urlare, è la depenalizzazione dell'aborto. Vi siete mai chiesti, cioè avete mai riflettuto, abbiamo mai riflettuto sul fatto, esiste una legge che regolamenta il parto? Non mi risulta. Io posso, il parto è altrettanto pericoloso quanto l'aborto, se non di più, perché ci sono due vite in ballo e non una. E comunque le donne che sono morte nei tempi passati di parto sono uno sproposito. Però io posso partorire dove ritengo più opportuno, posso partorire a casa mia, posso partorire in acqua, posso partorire nei campi, posso partorire per la strada, posso partorire in ospedale. Nessuno mi dice dove devo partorire, né succede niente se io partorisco a casa mia e succede qualche cosa se il parto va storto. Perché? Perché può succedere che il parto vada storto e quella è stata una mia scelta. Perché il parto è depenalizzato, nessuno ha mai pensato di porre dei paletti al parto, perché questo gli conviene, il sistema vuole usarci come corpo riproduttivo, mentre non vuole che abbiamo la gestione del nostro corpo. Quindi l'aborto è codificato, ha un percorso, se al di fuori di quello è un percorso, ha una punibilità penale. Allora, dopodiché l'articolo di Repubblica dice: in Italia torna l'aborto clandestino. Allora, l'aborto, il problema dell'aborto clandestino, cioè già la parola è sbagliata, il problema dell'aborto clandestino c'è perché l'aborto è penale, cioè se tu non fai l'aborto nelle strutture di Stato è penale. L'aborto dovrebbe essere depenalizzato assolutamente, liberalizzato assolutamente, io devo poterlo fare dove voglio, con chi voglio, quando voglio, ed è una decisione soltanto mia. Allora, voi mi direte, poi così si muore. Non è assolutamente vero. Cioè, provate a pensare se uno che o una che ha un problema di appendicite è così deficiente da andare a fare l'appendicite da uno qualsiasi. Vaglierà le situazioni, deciderà che cosa fare o che cosa non fare, se lo vorrà lo farà in ospedale, che l'ospedale è tenuto a dare la prestazione sanitaria gratuita a tutti tutti, compreso l'aborto, però se io voglio devo poterlo fare dovunque. Quindi già a parlare in Italia attorno all'aborto clandestino è una mistificazione, perché l'aborto clandestino c'è perché c'è questo tipo di situazione. L'aborto, come movimento femminista, noi dovremmo rivendicare l'aborto libero, gratuito nelle strutture dello Stato, depenalizzato sempre e comunque, perché dobbiamo essere solo noi a decidere dove, come, quando e perché. Well, you know by that I'm also head down walking through. Feel like blowing my lungs from home. I got up this morning, all I had was gone. You know I feel like blowing my, my lungs from home. You know I got up this morning, all I had was gone. Poi vorrei spendere una parola per un altro aspetto che è particolarmente importante nel contesto della 194, che è l'obiezione di coscienza. Il dossier di Repubblica dice: oltre l'80% dei ginecologi e oltre il 50% degli anestesisti e infermieri non applica più la legge 194 perché sono obiettori di coscienza. Allora, l'obiezione di coscienza è stata introdotta per il servizio militare, per la leva, che però era obbligatoria, e quindi essendo la leva obbligatoria nessuno avrebbe dovuto costringere nessuno a fare il soldato. Ma qui nessuno costringe nessuno a fare il ginecologo nelle strutture pubbliche. Se uno non è d'accordo con l'aborto, che è una legge dello Stato, non lavora nella struttura pubblica e non fa il ginecologo nella struttura pubblica, lo va a fare in una clinica dei preti o dove vuole lui. Nessuno costringe nessuno. Oltretutto, in nessun altro contesto statale io posso pontificare su una legge dello Stato, cioè io non mi posso mica mettere a disquisire sui programmi della scuola. Io come insegnante, se non faccio il programma della scuola, io vado per le peste. La scuola ha previsto un certo tipo di programma e io quello devo rispettare. Ho dei margini, ho pochissimi margini. Io agli esami devo portare gli studenti con quelli, con quei programmi lì, perché sono quelli che ha previsto un certo tipo di decreto, un certo tipo di legislazione. È soltanto sull'aborto che è stata permessa un'aberrazione di questo tipo. L'obiezione di coscienza non ci deve essere proprio. Nessuno si può permettere. Noi siamo in un'organizzazione, in una cosiddetta democrazia borghese. Se noi accettiamo questo tipo di impostazione per tutta un'altra serie di versi, la dobbiamo accettare anche per questo tipo di organizzazione. Non possiamo che una cosa vale in un senso e non vale nell'altro, che vale per certe cose e non vale per certe altre. Tant'è vero che poi, quando il sistema fa comodo, l'obiezione di coscienza, per esempio per gli anestesisti, per gli aspiranti trapianti che non vogliono dichiarare la morte cerebrale, col fischio che viene presa in considerazione. Like you do, like you do. Just don't care. But we both know, darling, that I Allora, vi avevo promesso la trasmissione di Elisabetta, quindi adesso vi leggo direttamente la parentesi, anche senza sigla, anche se vi annuncio che è arrivata Dennis, che è arrivato Dennis, e quindi faremo la trasmissione insieme. Ciao. Allora, vi leggo intanto la parentesi, intanto che Dennis riprende fiato perché è arrivato di corsa. Allora, terroristi e fiancheggiatori. L'elemento certo su cui tutte e tutti possiamo convenire nella lettura delle recenti elezioni amministrative è il calo dei e delle votanti, particolarmente forte nelle grandi città. In questo siamo in sintonia con il mondo occidentale e in particolare con lo stato guida, gli USA, dove la percentuale dei votanti si attesta al 50%. Perciò possiamo presumere che sia una tendenza che si confermerà e si accentuerà nelle prossime elezioni, perché il neoliberismo provoca disaffezione alla politica e allontanamento dalla conflittualità. Ci differenziamo invece dal resto dell'Europa, intendendo sempre quella che definiamo occidentale e comunque dagli Stati Uniti, per il fatto che non esiste un vero bipolarismo. Alcuni dicono che PD e PDL sarebbero come il Giano della mitologia, due facce di uno stesso progetto, e quindi un governo e l'altro una mera alternanza. Altri invece ritengono che saremmo di fronte a un'alternativa. È vero che possiamo parlare propriamente di alternanza e non di alternativa, con riferimento al quadro sistemico e al sistema capitalistico, ma i due partiti si differenziano fortemente in quanto portatori di interessi che non trovano nella forma Stato un momento di mediazione. Il PDL è il terminale degli interessi di una borghesia, incardinata sulle commesse statali, sul primato delle libere professioni e sui contributi a pioggia. Il PD rappresenta gli interessi delle multinazionali e della borghesia transnazionale, la vincente iperborghesia, che ha caratteri propri e che si differenzia dalla borghesia nazionale. Continuo fra un attimo. Eccomi di nuovo. Per il centrodestra non è stato sufficiente agitare il tema dell'abolizione dell'IMU sulla prima casa, della riduzione della pressione fiscale, denunciare il ruolo vessatorio di Equitalia e comunque adombrare condoni fiscali. I metodi tradizionali che rendevano possibile il consenso elettorale con la redistribuzione delle ricchezze e con collaudati benefici a settori garantiti dal lavoro fisso, dal titolo di studio e dal ruolo professionale non rendono più dal punto di vista elettorale. Un partito, il PD, che nella sua tradizione di governo e nelle sue pratiche si è dimostrato palesemente il punto di riferimento degli interessi neoliberisti in questo paese, sta uscendo vincitore dalle recenti elezioni amministrative, nonostante si sia presentato in una condizione di debolezza per via della gestione delle vicende presidenziali e dell'utilizzo che ha fatto della sua maggioranza relativa. Come è stato possibile tutto questo? Non certo per l'appetibilità dei personaggi messi in campo. Tra parentesi, Marino a Roma è stato trapiantato, fra virgolette, non avendo nulla a che fare con la città. E a proposito di trapianti, nessuno ha sollevato il problema che è un medico trapiantista, come se la cosa fosse indolore, incolore e insapore. Dicevamo, com'è possibile che un partito dichiaratamente ultraliberista, sposato con le multinazionali e i circoli atlantici che stanno seminando morte, dolore e miseria in tutto il mondo, Italia compresa, con l'accentuarsi di una povertà sempre crescente che sconfina nella disperazione e non è più circoscritta a fasce deboli, ma che investe strati sempre più larghi di popolazione, stia riuscendo a vincere le elezioni? Perché nell'immaginario collettivo è stata costruita l'idea di un partito comunque di sinistra, attento alle tematiche sociali e sensibile ai diritti delle cittadine e dei cittadini, e pronto a soccorrere i popoli del terzo mondo oppressi dalle locali dittature. Uno stravolgimento della realtà così forte, così violento, questo sì terroristico, che non ha precedenti. Tutto ciò non è stato reso possibile dalle capacità del gruppo dirigente del partito in questione, ma dal ruolo sempre più forte che hanno i media, che hanno assunto un'importanza come non hanno mai avuto in passato, diventando l'asse portante del verbo neoliberista in questo come negli altri paesi. Da qui la favola che Berlusconi controllerebbe l'informazione, prendendo a pretesto il fatto che ha delle reti e delle testate di proprietà, omettendo a pie pari evolutamente il ruolo della televisione di Stato e dei quotidiani nazionali, e inoltre quello sempre più determinante delle istituzioni di controllo giudiziarie e militari, nessuna esclusa, al servizio del progetto neoliberista, tradotto in parole povere, quello delle multinazionali, della NATO e dell'iperborghesia o borghesia imperialista, comunque la vogliamo chiamare, che si sono schierate tutte compatte dalla parte del PD. Il blocco di interessi coagulato intorno a Berlusconi è destinato ad essere sconfitto. Chiunque sia in contrasto, in tralci, in un modo, nell'altro, nell'altro ancora, al progetto neoliberista viene fatto fuori, e non conta se si tratti della Lega, del Movimento 5 Stelle o di Berlusconi. Questo rimanda alle vicende internazionali, dove non è la natura dei governi di Allende o di Sankara, di Saddam Hussein o di Gheddafi, ma la loro asimmetria rispetto agli interessi degli occidentali, che li rende invisi a questi ultimi e ne decreta in un modo o nell'altro l'eliminazione politica e nel loro caso anche fisica. Con la probabile vittoria del PD si metterà l'ultimo tassello al progetto neoliberista, quello del consenso elettorale per le cosiddette riforme. Era questa formalizzazione che mancava, questa era l'anomalia italiana, questo è il contributo del PD. Qualcuno ritiene che il gruppo dirigente del PD sia mediocre, non lo so e francamente non mi interessa, ma sicuramente non è vero che è senza idee, perché ha sempre saputo e sa di lavorare per la realizzazione compiuta del neoliberismo in questo paese, perché questo è il suo compito. Il neoliberismo è terrorismo sociale, la socialdemocrazia è terrorismo ideologico. Tutti i partitini, le associazioni di categoria, i percorsi, compresi quelli che trattano e si interessano delle donne, che si rendono complici a vario titolo, cinguettando e relazionandosi con il PD, sono fiancheggiatori. Allora, passiamo alla seconda parte. Dennis, con la sua rubrica Quel asterisco che non hanno il genere ma hanno la classe, vi leggerà una fiaba queer. Buonasera. Vabbè, intanto, insomma, oggi una cosa molto molto leggera, visto che insomma tutte le altre volte vi faccio ducona di così, e quindi insomma una volta ogni tanto, poi insomma sarebbe anche l'ultima puntata, quindi cioè dico quest'anno, diciamo, a grandi linee, e quindi insomma per oggi posso anche vi dare di stracciare un po' le scatole. No, vabbè, insomma incomincio a leggere. Una volta, tanto tempo fa, nel regno dell'eterocisnormatività, tante comunità di persone froce, trans ed intersex credevano che, se soltanto il mondo avesse conosciuto la verità sul loro conto, e si avrebbero smesso di subire l'iniquità di una vita segnata dall'odio, dalla violenza e dal pericolo. Il pericolo di vivere senza il diritto di avere o crescere bambini e bambine, di avere la protezione della propria incolumità fisica, di poter vivere le stesse opportunità concesse agli altri, come una casa ed un lavoro. Non siamo cattive, né perverse, né scherzi della natura. Se sapessero la verità ci accetterebbero, e questo castello sarebbe ospitale sicuro anche per noi, e sospiravano, pensando al giorno in cui avrebbero potuto essere anche loro parte del bellissimo castello che svettava tra le colline del regno. Ma il sovrano era così assetato di potere da non fermarsi proprio davanti a nulla per consolidare il suo dominio, e decise di utilizzare una delle più potenti armi a sua disposizione, la paura. Radunò ogni persona presente nel raggio di 1000 chilometri e raccontò loro che quelle comunità erano in realtà una maschera dietro la quale si celavano pericolosi draghi sputafuoco e mangiabambini. Quei depravati draghi portano calore, malattia e disperazione, gridava il re. Se quelle tremende creature riusciranno a guardarvi negli occhi, vi trasformeranno in mucchi di sale, buono soltanto per le bruschette. Le creature da lui inventate erano così terrificanti che gli etero cittadini scordarono ben presto che i draghi erano soltanto figure mitiche. L'esistenza dei draghi divenne così una verità incontestabile, sopra la quale vennero edificate molte altre bugie. Ebbe un senso quindi l'inizio, da parte dei sudditi, di sanguinose crociate a suon di teste di drago mozzate. Ogni litro di sangue sparso era accompagnato da emendamenti, leggi e provvedimenti che proibivano ai draghi ogni possibilità di sopravvivenza. Ogni testa significava altre spade, pugnali, pistole nelle mani degli eterocittadini inviati dal Sire ad annichilire quella che per loro era una minaccia terroristica. La verità non ebbe più alcuna importanza. La verità non li proteggeva. Il mito era reale. I draghi erano reali. Le storie immaginarie della depravazione draghesca viaggiarono di bocca in bocca, e l'inesistenza dei draghi sembrava non importare a nessuno. Agli occhi degli abitanti del regno, la lotta antidrago era una ragionevole forma di protezione da una così orribile minaccia, e così i draghi divennero realtà. Persino le comunità non credettero più nell'appartenenza alla loro stessa specie e cominciarono a sognare di essere degli eterocittadini, pienamente umani. Sembrarono scordare la loro umanità. Dimenticarono che essere loro stessi non li rendeva draghi e che non erano neanche dei bravi draghi. Non erano affatto draghi. Intrappolati in una storia che non era opera loro, Froce, trans ed intersex ebbero la necessità di ritornare in possesso della loro umanità. Vi era una sola possibilità: ergersi contro le velenose insinuazioni del Sire o rimanere per sempre disumani. Vedete, loro sono noi, il regno è questo mondo, il mito degli stati, del capitale e del patriarcato è divenuto realtà, e c'è una ragione perché questa si chiama fiaba. Non vivremo per sempre felici e contenti finché non lotteremo per esserlo. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star in the circle, constantly in the darkness. Where's that hand? If you want me, I'll be in the bar. Dopo questa bellissima fiaba queer di Dennis, diamo i nostri indirizzi. Allora, l'indirizzo di posta è autistiche e coordinamenta con due o chiocciola autistiche.org. Il blog su cui mettiamo i materiali, su cui potete trovare gli appuntamenti, su cui potete leggerci, è invece coordinamenta.noblogs.org. E ricordiamo sempre che questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, che è una radio senza padrine e senza padrone, e quindi se andate sul sito www.ondarossa.info, mi pare che sia i compagni mi uccideranno, trovate tutte le modalità per finanziare la radio. I live in a box of pins. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. Volevo ricordarvi che noi abbiamo fatto come coordinamenta un incontro nazionale separato proprio contro la violenza maschile sulle donne. L'abbiamo fatto a giugno dell'anno scorso e abbiamo pubblicato degli atti che sono in effetti il resoconto di due giornate. Sono venuti fuori tantissimi ambiti di discussione e quindi saremmo contente, sia qualcuna va, sia qualche gruppo va, sia qualche collettivo va, di discuterli insieme dove vorrete, se vorrete, e quindi scriveteci al nostro indirizzo di posta, che lo ridico, è coordinamenta@autistiche.org. Still I'd be on my feet, I'd still be on my feet. She had a mouth like yours. She knew your life. She knew your devils and your deeds. And she said, go to him. Stay with him if you can. In chiusura, vediamo, cioè ribadiamo una notizia che sicuramente spero saprete tutte e tutti, cioè che hanno messo di nuovo la bomba carta, la solita bomba carta, l'ennesima bomba carta, ci mancava questo appuntamento quest'anno, la bomba carta al 22. Quindi le compagne femministe e lesbiche del 22, come compagne femministe e lesbiche del 22, di cui anche la coordinamenta fa parte, vi leggo un comunicato che riguarda proprio questo fatto. Allora, il 26 maggio 2013 la porta scoppia. Un'ordinaria storia di lotta e resistenza in via dei Volsci 22. Se vi fosse mancata la solita allerta chiamata alle armi, che con cadenza più o meno regolare ci vede raccolte davanti alla porta del 22, non rimarrete deluse. Complice Derby e il solito clima di omertà e connivenza, anche questa volta la nostra porta in via dei Volsci 22 è stata fatta saltare con due bombe carta che ne hanno completamente divelto il telaio in ferro. Non dobbiamo cercare molto lontano i fuochisti, perché come di consueto hanno lasciato la loro elaborata firma. Non indovinate? Un grande cazzo e tre più piccoli a completare l'opera d'arte. Tra un paio di settimane il 22 subirà un nuovo tentativo di sgombero da parte di un ufficiale giudiziario mandato dal tribunale. Ora è una società finanziaria che pretende di mettere all'asta la sede del 22 per recuperare il credito del fallimento immobiliare e per imporre nuovamente logiche speculative. Da anni resistiamo ai tentativi di sgombero della proprietà e contemporaneamente ad attacchi ed aggressioni maciste, sessiste e lesbofobiche da parte di quelli che non digeriscono la presenza di femministe e lesbiche separatiste in via dei Volsci e invece accolgono come se niente fosse la propaganda elettorale di forze politiche che poco hanno a che vedere con la politica dal basso. Invitiamo tutte il 6 giugno 2013 dalle 19 alla serata resistente di autofinanziamento degli ennesimi lavori per rifare la porta. Occupiamo via dei Volsci con i nostri corpi indecorosi e liberi e la nostra lotta femminista e lesbica. Invitiamo tutte poi l'11 giugno alle 8 puntuali alla colazione resistente contro lo sgombero del 22. Let me be your pacifier.